Salvadanaio. Non preoccupatevi, non è America 24 con Mario Platero, non avete sbagliato trasmissione, siamo sempre noi di Salvadanaio. A tutti da Deborah Rosciani, buongiorno e buona giornata. Perché l'inno americano per aprire la nostra trasmissione? Perché ormai è partito il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In realtà il conto alla rovescia là dura quasi un anno, manca pochissimo a questo tanto atteso 6 novembre che vedrà il risultato della sfida fra il repubblicano Mitt Romney e il presidente democratico uscente Barack Obama. La sfida elettorale americana, lo sappiamo, affascina tutto il mondo, ci piace seguire le notizie dagli Stati Uniti, i risultati degli appassionanti confronti televisivi, tra l'altro gestiti giornalisticamente parlando in maniera molto avvincente, vinti dall'uno o dall'altro contendente. Il tutto ha insomma anche un fascino che ci appassiona e a volte sentiamo questa competizione come lontana dalla nostra realtà e quotidianità, ma non è così. Perché se c'è un fatto politico che influisce sul mondo intero, quello è proprio l'elezione del presidente americano, soprattutto in un periodo come questo in cui la crisi economica comincia a mordere, ed è una crisi economica che nel 2007 è partita proprio da là. Gli anni di Obama, questi ultimi 4 anni, sono stati gli anni della crisi, durante i quali le famiglie americane hanno visto crollare il valore delle loro case, diminuire in maniera precipitosa il reddito, perdere tanti posti di lavoro, quindi aumentare la disoccupazione, il grande tallone d'Achille per Obama, ma sicuramente anche la grande preoccupazione dell'altro candidato, qualora dovesse vincere, dovrà aggredirla in maniera molto forte. Allora, che rilevanza hanno i temi economici in questa campagna elettorale? Cosa potrà succedere sui mercati quando si saprà il nome del presidente che guiderà gli States nei prossimi 4 anni? Oggi a Salvadanaio andiamo ad esplorare i possibili scenari con l'aiuto dei nostri esperti, naturalmente anche rispondendo alle vostre domande, se siete curiosi su qualche aspetto e se vi interessa, perché magari avete anche un portafoglio di investimento che ha una fetta orientata proprio negli Stati Uniti. Con noi quest'oggi Corrado Caironi, responsabile di Investment Strategist di ricercafinanza.it, sì. Investment Strategist di, ho detto un po' di, bene. Ero talmente appassionata, Corrado, del tema che affrontiamo oggi che ho letto male la carica, quindi sono precipitata proprio sul finale. Bentornato, grazie, naturalmente. Grazie, buongiorno a tutti. A Salvadanaio. E saluto, invece gli do il benvenuto perché è la prima volta che è nostro ospite, Enrico Vaccari, gestore di Consulti Invest SGR. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta. Scriveteci al 349-238-6666 se avete delle curiosità, appunto, e volete invece di telefonarci, appunto, mandarci un messaggio. Siamo anche su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24, avete anche la nostra mail salvadanaio@radio24.it e naturalmente twittiamo anche noi come pazzi su @salvadanaio24. La borsa oggi pure guarda gli Stati Uniti perché aspettiamo il dato sul prodotto interno lordo americano e però c'è un po' di titubanza, un po' di incertezza. Il mercato oggi ha aperto male e così continua ad andare la mattinata, anche se si è un po' risollevato rispetto appunto alle perdite delle prime ore. -0,7% sul FTSE MIB, a Piazza Affari -0,4% su Parigi, -0,48% su Francoforte, -0,60% su Londra. In arretramento dopo i balzi degli ultimi giorni, delle ultime settimane, l'euro sul dollaro a 1,29,13. Non sono piaciuti al mercato i dati di Amazon, i dati di Apple, stranamente, quindi insomma evidentemente il mercato si aspettava che le vendite di iPad e iPhone fossero state chissà di quanti miliardi, invece sono state un po' meno del previsto, e quindi su queste aspettative, come sempre quando non vengono colte, il mercato fa precipitare i titoli. Ieri sera per esempio Apple nella sessione after hours di Wall Street ha perso circa il 3%, è andato ancora peggio per Amazon che ha perso il 7%, appunto a mercati chiusi, anche in questo caso i conti sono risultati in rosso nel periodo luglio-settembre. Milano, un'occhiata a Milano, ai migliori e peggiori titoli. Luxottica più 1,68%, Salvatore Ferragamo più 0,90%. Ieri Luxottica ha presentato i suoi dati di bilancio, già ieri su questa attesa era andato bene, il titolo è anche oggi conferma i suoi risultati portando con sé anche gli altri esponenti del lusso appunto di Piazza Affari, mentre sono un po' più in difficoltà Lottomatica meno 3,25%, STM meno 2,75%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,40%. Allora, oggi parliamo, come vi dicevo, di elezioni americane e sono ormai alle porte. Il 6 novembre c'è la tanto attesa appunto gara, chiamiamola un po' così, a stelle e strisce tra il presidente uscente, il democratico Barack Obama, e il repubblicano appunto Mitt Romney. Abbiamo già avuto modo di assistere nelle ultime settimane ai loro confronti televisivi, sono stati molto appassionanti, chiaramente l'economia, ma non solo, è stata una delle tematiche che hanno dominato appunto questi confronti. Subito un commento con i nostri ospiti, poi vi facciamo sentire anche qualche stralcio di questi dibattiti, almeno quelli che hanno avuto, come dire, un impatto più avvincente anche tra gli ascoltatori e chi seguiva televisivamente appunto questi match, chiamiamoli così. Corrado Caironi, allora, queste elezioni americane cadono in un contesto ancora difficile per l'economia, difficile, ma sicuramente siamo in un contesto diverso rispetto alla pesantissima eredità che Obama aveva raccolto 4 anni fa. Assolutamente sì, condensando il tutto, il dato più importante per Obama è stata la conferma della discesa sotto l'8% della disoccupazione, questo è stato un dato fondamentale. Il secondo invece punto a favore di Obama è stata la capacità di coinvolgere sempre di più gli esponenti della banca centrale, quindi di Ben Bernanke, a utilizzare la leva diciamo della liquidità all'interno di questa situazione molto difficile, e quindi questo ha creato sostanzialmente per lui un vantaggio importante negli ultimi 7-8 mesi. Però la cosa più incredibile è che diciamo in poco più di qualche settimana Romney, che sembrava ormai fuori dai giochi, si è ripresentato invece molto più grintoso, con degli elementi nuovi da questo punto di vista, contestando anche una situazione non sicuramente facile a cui sta passando appunto l'America da un punto di vista economico, e dando dei segnali di ripresa molto evidente. Ieri addirittura sembrava in vantaggio di un paio di punti. Ho proprio sotto gli occhi appunto questo sondaggio che indicava in vantaggio di un paio di punti il candidato appunto repubblicano alla Casa Bianca, col 47% delle preferenze fra i probabili elettori. Enrico Vaccari, lei lo ha visto il film Inside Job? Sì, l'ho visto. Allora facciamo sentire ai nostri ascoltatori un piccolo estratto di questo film, e poi per chi non lo conosce riassumo un po' che cosa contiene. L'era dell'avidità e dell'irresponsabilità di Wall Street e di Washington ci ha portato alla crisi finanziaria più grave mai avuta dalla Grande Depressione. La negligenza di Washington e di Wall Street è ciò che ci ha condotto a questo disastro. Vogliamo un regolatore di rischi e dei requisiti patrimoniali. Abbiamo bisogno di proteggere i consumatori. Cambierò la cultura di Wall Street. Allora, quando arrivò la crisi, poco prima delle elezioni del 2008, Obama evidenziò come i fallimenti di Wall Street fossero degli esempi per il bisogno di cambiamenti in America. Dopo essere stato eletto, parlò di riforme dell'industria finanziaria. Vi abbiamo fatto ascoltare entrambi i brani. Inside Job, per chi non l'avesse visto, è un film prodotto nel 2010, scritto e diretto da Charles Ferguson, ed è un film, un vero e proprio documentario, per la verità, che indaga sulle cause della crisi economica del 2008 e del 2010, ed ha vinto appunto l'Oscar come miglior documentario nel 2011. Enrico Vaccari, lei cosa pensa di questo particolare momento economico in cui cade questa sfida elettorale? Non che per le altre competizioni elettorali il momento fosse stato più favorevole, guardiamo sempre al faro americano come quella luce che traina un po' anche le economie mondiali. Forse questa favola un po' si è ridimensionata negli ultimi decenni, ma è sempre così anche per chi investe e si guarda in giro per il mondo, guarda tutti i mercati, ancora il faro è costantemente puntato sugli Stati Uniti? Sicuramente sì, perché il peso degli Stati Uniti negli indici mondiali è sempre molto alto, superiore al 30%. Poi in particolare queste elezioni rivestono un'importanza che si focalizza molto sui futuri regolamenti del sistema sanitario, del sistema delle banche, dell'energia, e quindi la posta in gioco diventa molto grande. Per cui direi che queste elezioni sono le più importanti a memoria, perché di fatto sono in gioco tutti i regolamenti di settori che sono strategici. Si parlava prima nel film del regolamento delle banche, proprio la campagna di Romney sul fatto che sulle banche ci sia magari una maggiore accondiscendenza da parte del sistema finanziario ha influenzato secondo me molto anche la rimonta di Romney col sostegno del sistema finanziario tutto. Allora, stavo intanto così curiosando fra le prime domande che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, adesso ve ne proporremo naturalmente qualcuna. C'è chi è interessato anche ad un eventuale cambio di guardia alla guida della Federal Reserve, ma tra l'altro, Caironi, ho sentito qualcuno che diceva, un po' provocatoriamente naturalmente, che questa amministrazione, più che essere stata un'amministrazione Obama, quella degli ultimi 4 anni, è stata un'amministrazione Bernanke. Bernanke, sì. È così? Sì, nel senso che, dicevo prima, diciamo Obama è stato bravo a coinvolgere sempre di più il tema Bernanke, perché non era detto che Bernanke avesse tutte le carte in regola secondo, diciamo, la logica Obama per essere rinnovato. Invece è stato rinnovato e si è creato un asse molto importante. Poi dal punto di vista, secondo la mia visione un po' più finanziaria, direi che effettivamente Obama non è stato, diciamo, in grado di poter capire fino in fondo la crisi che c'era proprio dal punto di vista degli asset finanziari e della pericolosità, della tossicità degli asset, mentre invece Bernanke è stato subito capace di individuare questo e soprattutto di trovare il supporto per riuscire a gestire, stiamo parlando di 3-4 trillion di dollari di asset tossici che man mano adesso stanno scadendo. La situazione anche immobiliare è cambiata molto, poi ne parleremo magari, un punto magari importante nella nuova strategia di crescita del paese, ma questo ha aiutato tantissimo proprio il sistema finanziario per produrre quell'effetto di deleveraging, di cui è stato parlato molto in questo periodo, in cui le banche dovevano abbassare assolutamente la loro capacità di essere presenti nel mercato senza andare ad ammazzare l'economia. Il primo impegno importante per qualunque dei due candidati la spunterà appunto il 6 novembre, quello con le questioni fiscali americane. Enrico Vaccari, il tema più importante sono appunto gli scenari naturalmente che potrebbero seguire il voto, non tanto quella che potrebbe essere l'immediata reazione di Wall Street, ma quali saranno le prime concrete azioni che uno o l'altro appunto intraprenderanno. Si va sicuramente a gennaio, c'è la scadenza del fiscal cliff, in italiano si tratta di un vero e proprio burrone fiscale, e quindi già il termine la dice lunga sul tipo di impegno che appunto il nuovo presidente si troverà ad affrontare. Ci spiega in termini semplici, per far capire anche a tutti i nostri ascoltatori che magari non hanno né tempo né appunto voglia magari di seguire le questioni americane, ma che stamattina si sono incuriositi, ci spiega in termini semplici quali sono queste misure che l'amministrazione Bush, se non ricordo male, aveva adottato appunto per il sostegno dell'industria americana. Di che tipo di sgravi fiscali stiamo parlando, che cosa avevano messo in campo appunto le amministrazioni, che cosa va a scadenza e che tipo di impatto questa scadenza potrebbe avere su tutta l'economia? E di fatto furono attuate dall'amministrazione Bush proprio in risposta alla crisi, e si tratta di una cifra importante perché sono oltre 536 miliardi che di fatto sono incentivi fiscali. La scadenza in gennaio di questi incentivi fiscali provocherebbe nelle reazioni del consumatore chiaramente un calo dei consumi e quindi avrebbe degli impatti molto forti sulla crescita economica. In realtà però sembra molto probabile che ci sia una proroga di questi incentivi, cioè che il Congresso in carica prima del passaggio del testimone possa prorogare gli incentivi di almeno 6 mesi per trovare una soluzione che possa essere, diciamo così, più dolce per il mercato e per i consumatori. Tutto questo però ha delle implicazioni molto forti, perché questi incentivi, chiaramente la proroga di questi incentivi potrebbe avere dei riflessi sul rating, e quindi è molto probabile che abbiamo due tipi di scure. Da un lato la fine degli incentivi con tutti gli effetti che potrebbero avere sulla crescita economica, dall'altro se gli incentivi venissero prorogati e la possibilità che ci sia il taglio dei rating. Quindi siamo sottoposti a diverse pressioni. A diverse tagliole, diciamo. Esatto. Di che tipo di incentivi stiamo parlando? Non lo so, per esempio l'incentivo ad attrezzarsi con un pannello fotovoltaico nella propria abitazione, tanto proprio per essere molto concreti, Vaccari. Ma di fatto sono detrazioni, detrazioni sulle tasse degli americani che hanno avuto un impatto molto forte. Di fatto c'è stata una restituzione fiscale. Poi gli incentivi hanno preso varie forme, hanno colpito il settore della salute, il settore dell'energia, e quindi sono andati a colpire diversi settori, ma l'impatto vero e proprio era in un aumento delle tasse che, se questi incentivi scadono, sarà molto forte per l'americano medio. E quindi l'idea è che, da una parte, se vince Obama, possa tutelare quelli che hanno redditi più bassi, nell'altro caso invece, se vincesse Romney, tentare di tutelare le classi più agiate, e quindi spostare la bilancia di questi incentivi che vengono a mancare su l'una o l'altra classe. E questo potrebbe essere un effetto da valutare anche in considerazione del candidato che vince. Certo, allora adesso, se vuole, poi Corrado Cairone lo faccio intervenire anche su questo aspetto, direi però di sentire subito i nostri ascoltatori, e cominciamo con un amico abbastanza fedele di Salva Danaio, Gianfranco da Pordenone, che saluto. Gianfranco, buongiorno, bentornato. Buongiorno dottoressa Deborah e al dottor Cairone, che sento sempre con piacere. Volevo chiedere se, visto che nelle settimane precedenti Romney è uscito con un'affermazione che, nel caso di una sua vittoria, non confermerebbe Bernanke la guida della Fed, questo possa essere mal visto da quella fascia di critica che potrebbe vedere allontanati altri interventi di quantitative easing. Poi, mettiamola un po' sul ridere, una seconda domanda che vorrei rivolgere a lei. Visto che Romney è uscito recentemente anche con l'infelice affermazione che le donne sono solo degli oggetti, se fosse cittadina USA lo voterebbe? Non sarebbe, no, direi di no, ma non solo per questo. Per la verità, Gianfranco, io ho proprio un approccio anche molto a pelle con questo candidato, mi piace di più. Intanto sono proprio più democratic oriented, sono più per l'asinello che per l'elefante, ma questa è una, come dire, una questione proprio di pelle, come le ribadisco. Poi ci sono anche tante altre ragioni, un po' questo approccio guerrafondaio storico dei repubblicani non mi piace, ho proprio un altro orientamento, quindi questo è il punto. Sicuramente con questo giudizio Romney è sprofondato ulteriormente anche di fronte a me, se questo mai gli dovesse interessare. Però ho tanti amici americani e magari trasferirò queste mie considerazioni a loro, qualora appunto interessasse sapere cosa ne penso. Grazie Gianfranco, ci fermiamo adesso per la prima pausa, torniamo tra pochissimo. Salva Danaio. Qualcuno mi ha ricordato qualche sera fa che una volta ho detto: l'avidità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare tre case che non può permettersi senza dare l'anticipo. Ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di $250,000 sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV al plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono, anche un SUV. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. Come Gordon Gekko, nessuno probabilmente sarà mai capace di sintetizzare in maniera tanto efficace la crisi degli ultimi anni degli Stati Uniti. Effettivamente, chiamiamola avidità, chiamiamola generosità del sistema bancario, ma anche del sistema politico, perché questa dichiarazione di ogni americano deve avere una casa, la ricordiamo per bocca del presidente appunto Bush. Allora, perché abbiamo scelto questo pezzo tratto da Wall Street, il film Il numero 2, Il denaro non dorme mai, quindi questo celebre proclama di Gordon Gekko, perché effettivamente tutta questa liquidità in circolazione potrebbe anche, chissà, riportare di nuovo ad una bolla immobiliare. E allora ci riagganciamo alla domanda che ci ha fatto l'ascoltatore che abbiamo sentito prima della pausa. Gianfranco da Pordenone si interrogava sul futuro della banca centrale americana, tanto generosa nel sostenere appunto l'economia statunitense negli ultimi anni per aggredire in maniera molto drastica una crisi terribile. Enrico Vaccari, sento lei per capire che tipo di idea ha sulla prossima personalità che potrebbe sedere sulla Federal Reserve. Forse se Obama rimane, manterrà Bernanke, se dovesse vincere Romney forse non è tanto intenzionato, anche per le ragioni che indicava prima Corrado Caironi, non è molto d'accordo in questa politica monetaria così esageratamente espansiva. Sì, infatti, tra l'altro se vince Obama c'è anche un'ulteriore possibilità che venga nominato Janet Yellen, che è il vice di Bernanke, quindi che comunque un cambiamento a febbraio venga fatto, ma che di fatto sia un cambiamento di continuità. Non è altro che la nomina del suo vice. Se invece vince Romney, potrebbe nominare Glenn Hubbard, che è il suo consigliere economico che lo sta assistendo nel tour che sta facendo elettorale, ma ci sono anche altre possibilità che sono un po' più inquietanti, perché c'è anche la possibilità che venga nominato Taylor, e se venisse nominato Taylor si prevede anche che sia uno abbastanza aggressivo, e quindi si potrebbe avere anche un'inversione di tendenza nella politica espansiva attuata da Bernanke, che potrebbe essere fermata nel caso di Hubbard, nel senso che comunque non verrebbe implementata, ma addirittura invertita totalmente con rialzi dei tassi già a partire dall'insediamento del nuovo governatore. Per cui devo dire che questo è uno degli aspetti più importanti, insieme a quello strettamente collegato di cui abbiamo già parlato prima sul downgrade del rating, che influenzeranno i prossimi mesi, i prossimi anni. Quindi ecco, molta importanza su chi vincerà per cercare di capire chi sarà il governatore della Banca Centrale. A proposito del rating, ricordiamo che gli Stati Uniti, Corrado Caironi, la scorsa estate hanno perso la celeberrima AAA proprio in concomitanza con il dibattito accesissimo in congresso, l'abbattimento del tetto del debito. Appunto, a che punto siamo su quella questione in America? Allora, in realtà c'è stata questa proroga e quindi è stato alzato il tetto, ma qui siamo di nuovo nella stessa identica situazione con il tema del fiscal cliff. In realtà proprio adesso a gennaio scadono queste agevolazioni e quindi bisognerà ribadire. Qui attenzione, perché molti parlano ovviamente del presidente, quindi sarà lui certo in carico e quindi avrà il veto sulla diciamo su quello che il congresso dovrà decidere, ma qui il problema è del congresso, quindi ci sarà un congresso nuovo che deriva dalle elezioni, e in questo caso ovviamente sarà molto importante riuscire a avere in congresso un accordo veloce. Quello che sembra più probabile è che questo accordo veloce ci sarà, ma solo per avere delle proroghe, quindi 3-6 mesi, e quindi prendere tempo ulteriormente su questo. Sul discorso che faceva anche Gianfranco, anche qui io sono d'accordo, perché Bernanke in realtà scade il 1 gennaio del 2014, quindi c'è ancora uno spazio non indifferente, c'è ancora tutto un anno intero, e questo è molto importante. Certo. Perché la sua diciamo il suo quantitative easing 3 va verso direzione ogni mese dei 40 miliardi, quindi questo dovrebbe riuscire comunque a gestire tranquillamente il passaggio del 2014. Corretto quello che diceva anche il collega Hubbard, che è questo docente alla Columbia University, chiaramente ha una visione molto più restrittiva in termini liquidità nel sistema, ma soprattutto diciamo che qui il tema forte è, se noi dovessimo guardare l'impatto sul mercato finanziario, abbiamo due impatti completamente diversi. Da una parte un rialzo dei tassi che potrebbe essere appunto quello di Romney attraverso questo nuovo governatore come Hubbard, e dall'altra parte invece tassi ancora bassi e questo punto con la conferma di Bernanke fino al 2015. Certo. A questo punto questo va a incidere estremamente in maniera decisa sul discorso dei due temi aperti, che sono quelli della regolamentazione. Uno, che è quello del famoso Dodd-Frank Act, che dovrebbe essere quello della regolamentazione dei fondi hedge, quindi di quella speculazione eccetera, e all'interno di quello, il ricordo, sono dei nomi strani, però il Volcker Rule, che è quello invece che va a dividere in due le attività, da una parte il retail banche e dall'altra da una parte e il retail e dall'altra invece investment banking, mm-hmm. quindi con il trading di proprietà eccetera. Tutto questo lavoro è proprio in funzione di quelle che saranno diciamo le due scelte. Tenete conto che oggi Romney su questo tema ha parlato di relaxation, cioè relaxing, che vuol dire sì, lo faremo, non è la priorità della mia amministrazione qualora io dovessi vincere, mentre dall'altra parte Obama sta andando verso sì. e sta spingendo. Poi è una battaglia davvero che Obama non ha vinto, la separazione tra le due attività diciamo delle banche. Allora noi per adesso abbiamo fatto grandi scenari molto generali, ma vorrei adesso concretizzare per a beneficio dei nostri ascoltatori la nostra trasmissione, quindi per capire anche la borsa molto in maniera molto becera dove potrà andare, quindi Wall Street che cosa si attende dal nuovo presidente qualunque esso sia, e soprattutto se il nuovo inquilino della Casa Bianca sarà la conferma del democratico o la novità del repubblicano, il ritorno del repubblicano, appunto quali settori potrebbero trovare giovamento dall'uno piuttosto che da un altro e chi potrebbe correre in borsa, chi invece rallentare. Però sentirei anche la riflessione di Ernesto da Mantova per poi riprendere appunto a chiacchierare con i miei ospiti di stamattina. Ernesto, buongiorno. Buongiorno, io vorrei, mi rivolgo a Ronny, perché Ronny... Ah, proprio a lui, precisamente. Proprio a lui, perché io mi piacerebbe dirglielo. Lui conosce bene il francese, ha fatto diversi anni quando era giovane in Francia, mm-hmm. e ha avuto un grosso incidente stradale, dove la Francia gli ha garantito il servizio sanitario gratuito, che lui è stato curato gratuitamente senza spendere una lira, e secondo me lui si dovrebbe ricordare, perché dovrebbe portare avanti un sistema sanitario uguale a quello che lui ha usufruito, secondo me. Ernesto, sentiamo allora la sfida sanitaria come sarà raccolta da Romney qualora vincesse, o se verrà confermata invece la linea seguita da Obama fino a questo momento. Ernesto, la ringrazio molto. Adesso sentiamo Caironi e Vaccari su questi argomenti. Volevo solo precisare una cosa per un ascoltatore che ci ha scritto a Salvadanaio chiocciola Radio 24, Andrea Pirri, lo dico tutto così si riconosce, perché mi contesta di aver detto ad inizio trasmissione che Apple ha chiuso i conti in rosso. La prego si informi prima di dire alla radio tali assurdità. Io ho parlato di Amazon e ho detto che Apple ha venduto meno iPhone ed iPad del previsto, per questo ieri sera Wall Street nell'After Hours ha penalizzato il titolo. Quindi prima di lei contestarmi quello che dico, ascolti bene tutto qua, insomma una precisazione che ci tenevo a fare perché non ho detto la scorrettezza, ne dico tante per carità del cielo, questa però non me la attribuite. Allora Vaccari, magari prima di andare in pausa un minutino glielo posso concedere sulla riflessione di Ernesto. L'amministrazione democratica si è caratterizzata per questa implementazione dei programmi Medicaid, no? Che possono appunto sostenere dal punto di vista sociosanitario le classi meno abbienti. Se dovesse vincere Romney, ha intenzione di cambiare direttamente marcia, completamente marcia? Ma immediatamente no, però nel medio termine sarebbero sicuramente sfavoriti il settore della salute e del consumo non discrezionale, settori che invece sarebbero favoriti nel caso di riconferma di Obama. Così come con Obama sarebbero sicuramente favoriti i settori legati anche alle attività delle imprese industriali attive nelle infrastrutture, perché comunque Obama ha un piano infrastrutturale molto forte che quindi potrebbe continuare. Nel caso di Romney invece sicuramente i settori legati alla difesa e anche il settore bancario e finanziario avrebbero secondo noi un andamento maggiormente positivo, perché sono notoriamente più favoriti da un'amministrazione repubblicana. Benissimo, ci fermiamo. Suggerimenti per chi è in viaggio, poi Mirko da Milano, ho promesso anche di sentire e risentire anche i dibattiti televisivi tra i due candidati. Adesso accontenteremo anche gli ascoltatori che ce li stanno richiedendo tra poco. Salvadanaio. Quando assunsi la presidenza, credevo che le tasse fossero alte, e lo erano, ma avevamo un piano che una volta messo in pratica ha portato quasi 1.3 trilioni di dollari nelle mani dei lavoratori americani. Non bisogna avere una casa mediocre. Anche l'acquirente con un basso reddito può comprare una casa bella come quella degli altri. Oh. Ancora un estratto da Inside Job, questo era George Bush Junior, la politica della casa per tutti e delle agevolazioni fiscali, e oggi ci ritroviamo per questa politica nella crisi che conosciamo. Poi chiaramente avrà fatto anche bene, avrà realizzato e coronato il sogno di tanti americani, però effettivamente anche noi, anche se per un breve lasso di tempo, abbiamo pagato lo scotto di aver comprato casa quando non avevamo tanto denaro a disposizione. Immaginate il fenomeno italiano amplificato all'ennesima potenza negli Stati Uniti, sappiamo appunto quello che è successo a seguito di tutto ciò. Allora, da che cosa eravamo, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla borsa, vicino, borsa dopo Romney, borsa dopo Obama. Corrado Caironi, che settori lei vede privilegiati in relazione ad un candidato piuttosto che un altro? Cosa potrebbe fare Wall Street gennaio in poi? Allora, il tema, uno dei temi più importanti, molto discusso proprio anche in questi giorni in occasione della del terzo quarter della earning season, quindi dell'attenzione per quanto riguarda i report delle aziende, è l'evoluzione che potrebbe esserci in termini di crescita sia di business sia di profitti, perché qui è diciamo indipendentemente ormai dai due diciamo dalle strategie poi che metteranno in atto nei prossimi anni, però oggi guardando la borsa ci sembra di capire che i profitti si siano un attimino rallentati. Questo l'abbiamo visto proprio negli ultimi giorni, anche ieri hanno riportato 54 società e sostanzialmente solamente una piccola parte è riuscita a battere i profitti. Ne parlavamo prima anche per Apple, ha fatto un'ottima trimestrale però sotto le attese, quindi molto positiva ma sotto le attese. Ora questo non vuol dire che in realtà la borsa sia in difficoltà, ma la previsione per i prossimi trimestri sta in una leggera contrazione degli utili in funzione del fatto che comunque in termini di costi le aziende hanno lavorato tantissimo, la produttività è stata alle stelle proprio negli ultimi trimestri, ma l'espansione di business non c'è. Questo è il tema che caratterizzerà i prossimi tre trimestri, secondo me, indipendentemente sostanzialmente poi dal risultato politico. Se dovessimo comunque guardare con più attenzione, noi in questo momento stiamo analizzando i settori meno indebitati e rimangono sostanzialmente due quelli più interessanti, cioè quello dell'healthcare, che tra le altre cose andrebbe anche a impattare positivamente in caso di una vittoria, di una riconferma del presidente Obama, e che verrebbe comunque messo un attimino più in discussione da parte di Romney. E l'altro è ancora la tecnologia. La tecnologia è il settore meno indebitato, con delle grandissime capacità ancora di investimento, sì, di potenzialità. Sì, perché fanno della cassa incredibile, poi venderanno anche un iPhone in meno negli Stati Uniti, però. Ma soprattutto una grande capacità di essere presenti a livello mondiale. Questo sono i due temi. Poi sul discorso che dicevamo prima del fiscal cliff, ci potrebbe essere anche questa riduzione dell'agevolazione per quanto riguarda i dividendi, e in questo caso la strategia potrebbe essere proprio quella dei CEOs, che dei direttori delle varie società, che potrebbero cambiare la loro strategia tra dividendi, e quindi che potrebbero essere di nuovo tassati in maniera decisa nel caso appunto di questo fiscal cliff che dovesse essere rivisitato a favore magari di altre operazioni, come potrebbero essere quelle del buybacks cosiddetto, no? Riacquisto delle proprie azioni proprie. Quindi questo potrebbe essere la strategia. Insomma, stiamo a guardare, adesso possiamo disegnare tutti gli scenari del mondo, ma in ogni caso dobbiamo aspettare di vedere chi andrà a Capitol Hill, quindi chi siederà alla Casa Bianca nella sala ovale. Allora, era il secondo dibattito presidenziale il 16 ottobre davanti al pubblico dell'Università di Hofstra a Long Island, New York, in un confronto che ha spaziato dai temi economici a quelli della sicurezza nazionale. Il presidente in carica si è mostrato più in partita rispetto al suo concorrente Romney, mentre nel confronto precedente era apparso un po' più appannato. Allora abbiamo estratto questo microscopico confronto dove entrambi si attaccano sulla questione del proprio fondo pensione. Mr. President, have you looked at your pension? You know, I don't look at my pension. It's not as big as yours, so it doesn't well, take as let long. Well, let me give you some advice. I don't check it that often. Oh. Ecco qua, intanto volevo ringraziare la redazione di America 24 che ci ha fornito questi stralci che erano già stati tagliati da loro da questi dibattiti. In sostanza Romney attacca Obama e gli dice: signor Presidente, le faccio una domanda, ha visto il suo estratto di pensione, ha visto dove erano i suoi investimenti? Romney non ha tempo di finire perché Obama gli risponde prontamente: no, non ho visto il mio estratto di pensione perché credo che sia molto più basso del suo, quindi in un atteggiamento di piena consapevolezza rispetto a come possano andare anche i fondi pensione degli americani. Tra l'altro l'altro, Enrico Vaccari, volevo tornare da lei perché Consult Invest SGR è una società che opera naturalmente attraverso una rete di promotori finanziari. Mi volevo togliere questa curiosità, ma c'è molto interesse da parte del piccolo risparmiatore nei confronti del mercato americano? Si investe in quest'area anche per piccole tasche e piccoli tagli? Sì, sicuramente sì, anche perché la strategia che la società che noi applichiamo è quella di diversificare il più possibile gli investimenti, e un investimento diversificato non può precludere gli Stati Uniti, che tra l'altro oggi hanno anche delle condizioni di corretta valutazione dei mercati, anche in alcuni casi, per esempio se guardiamo sia il prezzo utili che il prezzo valore di libro, ci troviamo in una condizione di corretta valutazione con margini di apprezzamento ancora, quindi oggi il mercato americano è interessante indipendentemente da chi siederà alla Casa Bianca, proprio in ragione del fatto che poi i prezzi non sono saliti tanto, così tanto, anche in rapporto sia agli utili che al valore di patrimonio. E credo che la borsa americana sia stata molto condizionata anche da quello che è successo qua da noi in Europa. E che quindi anche potesse... se dicevo con Caironi prima microfoni spenti, nei dibattiti televisivi, perlomeno quelli che abbiamo visto ovviamente, ma non so se in altre sedi ne abbiano parlato, Obama e Romney la parola Europa non l'hanno mai pronunciata. Lì, loro no direttamente, però ne ha parlato spesso Bernanke quando faceva le audizioni, perché l'impatto di una crisi del debito in Europa sarebbe stato molto pesante anche per gli Stati Uniti, ed è un problema che li riguarda direttamente perché loro tra l'altro hanno dei rapporti debito rispetto al PIL che sono addirittura presi complessivamente molto peggiori rispetto all'area Europa tutta insieme, quindi ci sarà poi il problema anche del debito americano che sarà poi molto forte soprattutto in caso di downgrade. Allora, la nostra trasmissione sta volgendo al termine, non riesco a sentire Mirko da Milano che voleva dire quando il crollo fu dovuto alla crisi petrolifera, stiamo tornando a quel periodo con valori pari a quelli del 2001, anche se in realtà qua parliamo di crollo della new economy e dello scoppio della bolla tecnologica. Mirko, magari ci ritorneremo su questi argomenti in concomitanza con le lezioni, magari faremo una puntata successivamente quando avremo l'idea chiara dell'inquilino, del nuovo inquilino della Casa Bianca, e vedremo a quel punto quale sarà la reazione di Wall Street. Grazie molto a Corrado Caironi, grazie, a presto, e ad Enrico Vaccari, buona giornata, grazie molte. A voi, buona giornata. Noi ritorniamo, oggi è venerdì, dico bene, quindi noi ritorniamo lunedì. A Salvadanaio, a tutti buon weekend.